Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Da giorni siamo alla ricerca degli squali martello, ma la temperatura dell'acqua è troppo alta e loro non si fanno vedere. Mi chiamo Alessandro Lazzarini, vivo sul Biate e arrivo da una famiglia con la passione per le profondità marine. Nella stanza da pranzo della nonna c'era un armadietto chiuso da uno sportello a vetri e dentro l'armadietto un pezzo di pelle. Il pezzo era piccolo, ma spesso e coriaceo, con ciuffi di ispidi peli rossicci. Uno spillo arrugginito lo fissava a un cartoncino e sul cartoncino c'era scritto qualcosa con un inchiostro nero sbiadito, ma io ero troppo piccolo all'epoca per leggere. «Che cos'è questo?» chiesi. «Un pezzo di brontosauro», mi rispose la mamma. La mamma conosceva i nomi di due animali preistorici, il brontosauro e il mammut. Sapeva che questo non era un mammut. I mammut venivano dalla Siberia. Questo particolare brontosauro era vissuto in Patagonia, regione del Sud America all'estremo limite del mondo. Migliaia di anni prima era caduto in un ghiacciaio, era disceso lungo il fianco di una montagna in una prigione di ghiaccio azzurro ed era arrivato in fondo in perfette condizioni. Fu qui che lo trovò Charlie Millward, il marinaio, cugino della nonna. Inizia così In Patagonia di Bruce Chatwin, uno dei libri più famosi di Chatwin, ma soprattutto uno dei testi più famosi per quanto riguarda la letteratura di viaggio. Inizia così oggi la prima puntata che è dedicata per i prossimi quattro giovedì alle storie di viaggio. Vi ho chiesto di mandarci delle storie riguardanti i viaggi che avete fatto, dei diari, dei piccoli episodi avvenuti durante un viaggio che in qualche modo ha cambiato la vostra vita, in qualunque modo, l'ha migliorata, l'ha peggiorata, vi ha fatto scoprire una parte nascosta di voi e del mondo. Continuate a mandarli, continuate a scriverli. Voi siete qui, @radio24.it. Cominciamo con Chatwin e poi passiamo la palla ad Alessandro, che invece è l'autore della storia di oggi, che parla di un viaggio che porta lui e il suo babbo in un posto molto caldo, che è anche un posto molto turistico di recente, che è il Mar Rosso, ma che è a sud del Mar Rosso, praticamente davanti alle coste del Sudan. Lì c'è un posto, c'è un'isola in mezzo al Mar Rosso, non è nemmeno un'isola, è proprio, se ci andate a vedere le foto, se andate su Google Immagini e scrivete Angarosh, scritto con la SH finale, scoprite questa piccolo atollo, quasi, non è un atollo perché l'atollo ha la barriera corallina, ma è una spiaggetta che spunta in mezzo al mare. Questo è quello che si vede, cioè della spiaggia, proprio una macchia di sabbia in mezzo al mare e di fianco l'acqua più cristallina e più turchese rispetto a dove invece è molto più blu e molto più profonda. Quel luogo viene chiamata la madre degli squali. Loro quindi il viaggio lo fanno prima in Mar Rosso e poi giù nel fondo del Mar Rosso alla ricerca degli squali martello, per l'esattezza. E adesso Alessandro vi racconterà esattamente come avviene questo incontro. Non dovete per forza aver incontrato degli squali, ma se avete incontrato un animale selvatico di qualsiasi genere esso sia, oggi è il momento per raccontarlo. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma Voi siete qui Radio 24 o il profilo Twitter del programma Voi siete qui R24 o il mio banalmente Matteo Caccia. Già scrivono Beatrice sulla via Tiberina una sera d'estate di circa 40 anni fa, un bellissima istrice ci ha attraversato la strada. È stata la prima ed ultima volta che ne ho vista una viva. Era alta e per miracolo non l'abbiamo investita. Sapevo che in zona le davano la caccia per la bontà della sua carne. Gabriele, mi trovavo in un'aula studio in Inghilterra. Già fa strano perché uno si immagina un viaggio in un luogo assurdo, invece un'aula studio, Gran Bretagna. L'aula era al piano terra e aveva una lunga vetrata. Mentre stavo studiando ho visto a un tratto una specie di cane gatto, solo dopo ho realizzato che fosse una volpe, con un animale morente in bocca sporco di sangue. Non mi scorderò mai gli occhi demoniaci di quella volpe. 349-238-6666. Alessandro, raccoglievo asparagi selvatici e una vipera che soffiava a pochi centimetri dal mio naso. Paura vera, ho fatto un salto di 5 metri. 349-238-6666. Dicevo, oggi parliamo di viaggi, cominciamo una breve rassegna di 4 puntate da qui ai prossimi 3 giovedì di viaggi che in qualche modo hanno cambiato la vostra vita. Qui immaginatevi di essere in un posto molto molto caldo, fa talmente caldo che la temperatura dell'acqua è calda, è talmente calda la temperatura dell'acqua che nemmeno gli squali riescono a starci. Siamo su una barca ormeggiata, c'è un po' di vento, c'è un po' di onda, siamo in mezzo al al mare. Siamo nel Mar Rosso, c'è una macchia di sabbia e a un certo punto qualcuno viene da noi e ci dice: ok, prepariamoci perché gli squali stanno arrivando. Da giorni siamo alla ricerca di questi benedetti squali martello, ma la temperatura dell'acqua è troppo alta e loro non si fanno vedere. Ci siamo spinti fino a qui, Angarosh, il cui significato madre degli squali rende l'idea del luogo. Ma anche qui, nonostante l'ultima immersione si sia svolta in profondità, non ne abbiamo visti neppure l'ombra. Ne parlo col mio babbo. Insieme decidiamo di lasciar perdere, è inutile fare un'altra immersione oltre i 50 metri, quando a quote più basse possiamo goderci frotte di squali grigi. Non saranno squali martello, ma almeno le immersioni hanno una durata ragionevole e possiamo gustarci con calma questi splendidi animali. Non passano 10 minuti da quando la decisione è stata presa, che Claudio, l'armatore, ci chiama da parte. Questa è la volta buona, ci assicura. Scendiamo in pochi, selezionati. Scambio uno sguardo con mio padre. Ok, facciamolo. Speriamo di non sprecare l'ennesima immersione a guardare nel vuoto, nel blu. Si salta sul gommone e si parte. Ultimi controlli all'attrezzatura. Capriola e via. Ho iniziato a fare immersioni all'età di 14 anni, ora ne ho 40. La cosa più bella di un'immersione è scoprire un mondo che ai più è sconosciuto. Iniziamo l'immersione dirigendoci da subito verso il primo pianoro, situato a circa 25 metri. Lo sorvoliamo rapidamente e ci dirigiamo al secondo pianoro, che si trova a meno 50. La profondità inizia a farsi sentire, mi rendo conto di non essere perfettamente lucido. Decido quindi di risalire attorno ai meno 40 e intanto seguo il gruppo che una decina di metri sotto di me si sta dirigendo verso il salto esterno. Dall'alto vedo una sagoma scura alla nostra sinistra, sul bordo del pianoro. Una cernia gigante. Sbuca curiosa per guardare cosa succede in quelle acque solitamente tranquille. È enorme. Una torma di grossi pesci che accanto a lei appaiono minuscoli, la avvolgono e la seguono come una nuvola. L'esemplare è lungo circa 2 metri e stimeremo poi un peso di 200-250 kg. Peccato non potersi dedicare a lei in questo momento. L'obiettivo del gruppo è un altro. Mi dirigo nuovamente verso il fondo per raggiungere i miei compagni di immersione, attento alla ricomparsa di eventuali sintomi da narcosi da azoto. Questa volta tutto procede regolarmente e la mente rimane lucida. Raggiungiamo il bordo esterno, sotto di noi una parete infinita sprofonda nel blu, e nonostante l'acqua limpida non ne vedi la fine. Il rischio di farsi prendere dalle vertigini è reale. Controlliamo la temperatura dell'acqua, siamo oltre 50 metri e la temperatura è di quasi 29 gradi, ancora troppo alta. Gli squali che cerchiamo amano acque più fresche. Decidiamo comunque di allontanarci dalla piattaforma e ci lanciamo nel vuoto. Gli occhi passano continuamente dall'acqua che ci circonda alla ricerca di qualche ombra e poi al profondimetro, attenti a non scendere troppo, senza più riferimenti esterni che ci indichino la profondità. Continuiamo a scendere e giungiamo a meno 60 metri. La tensione è palpabile, il tempo scorre veloce. Meno 65 metri. E poi ombre. Ombre nel blu che si avvicinano. Arrivano. Finalmente arrivano. Si avvicina un piccolo gruppo di grossi squali martello, dietro i quali intravediamo una moltitudine di altre ombre. Li vediamo passare tutti attorno a noi, sopra, sotto, di fianco. Ci girano attorno, osservano, ondeggiano con un'eleganza maestosa. È uno spettacolo fantastico. Meno 70 metri. Il tempo passa inesorabile. Claudio ci richiama all'ordine con un colpetto lieve di shaker, ma il momento è magico e nessuno si muove. Un altro colpo di shaker, questa volta più deciso. È ora di risalire. Prendo Danilo per una pinna, il ricercatore. Lui è perso dietro la sua telecamera. Lo trascino via. Malvolentieri salutiamo questi principi del mare e ci dirigiamo verso la piattaforma, che ormai è lontana. inizia il rientro. Siamo ancora molto profondi e inizio a guardare con preoccupazione il manometro. L'aria rimasta non è molta. L'area di risalita è lontana e la decompressione è lunga. Claudio si tiene profondo, sa che poco sopra le nostre teste la corrente è forte e rischierebbe di farci consumare troppa aria. Io so che l'aria non ci basterà comunque se rimango a questa profondità. Decido di risalire a quote meno profonde e nonostante la corrente riesco a tenere il passo di quelli che sono rimasti giù sul fondo. Ma il problema dell'aria non è solo il mio e poco dopo altri mi raggiungono. Qualcuno inizia però ad accusare la fatica del nuoto controcorrente. Mi volto e vedo che parte del gruppo è rimasto indietro. Solo io riesco a tenere il passo dei tre rimasti sul fondo senza la corrente. Gli altri si allontanano sempre di più, li sprono ad avanzare, manca poco. Poi scambio uno sguardo con mio padre e con un gesto decidiamo di lasciar perdere. Il rischio che qualcuno vada in affanno è troppo elevato. Ci fermiamo, il gruppo si separa. I tre rimasti sul fondo proseguono, io torno indietro e mi unisco agli altri compagni di immersione. Rimaniamo in mezzo al blu con una lunghissima decompressione da fare, trascinati dalla corrente, senza neppure un pallone di emergenza. Quelli che avevamo sono rimasti assieme ai tre che hanno proseguito sul fondo. Risaliamo quindi a quota decompressione senza più preoccuparci di dove stiamo andando. La decompressione serve a eliminare l'azoto che si è accumulato nel sangue durante l'immersione e al termine dell'immersione non è possibile uscire in maniera rapida dall'acqua, ma bisogna fermarsi a determinate tappe di profondità per smaltire con la respirazione l'azoto in eccesso. Il tempo intanto passa lento e inesorabile. Per primo finisco la decompressione, forse perché sono stato più alto e più spesso rispetto al resto del gruppo. Il manometro segna zero, ma l'erogatore continua a darmi aria. Risalgo, mollo i tre metri della frusta di emergenza a quelli che sotto di me sono rimasti a corto d'aria e devono ancora smaltire l'eccesso di azoto accumulato. Mi guardo attorno e scorgo lontanissima la barca. La corrente ci sta portando sempre più lontano, in mezzo al nulla, e del gommone manco l'ombra. Urlo, non mi sentono. Per fortuna ho con me il fischietto, provo una, due, tre volte, ma sulla barca nessuno si muove. Forse siamo troppo lontani, allora riprovo ancora e ancora, fino a quando qualcuno finalmente se ne accorge. Sentono ma non ci vedono, persi come siamo in mezzo alle onde. Nel frattempo altri compagni di immersione hanno terminato la decompressione ed iniziano a sbracciarsi assieme a me. Finalmente ci hanno visti. Pochi minuti e il gommone è da noi con la bombola di scorta che passiamo a chi sotto deve ancora terminare l'immersione. Gli altri tre non sono ancora risaliti. Quando poco dopo ci troviamo tutti assieme sulla barca, c'è qualche mugugno da una parte e dall'altra per come il gruppo si è separato. Però alla fine è andato tutto bene e l'emozione dell'immersione appiana i malumori. È stata un'immersione incredibile, la più bella e sicuramente la più avventurosa che io abbia mai fatto. Fabrizio scrive al 349-238-6666. Tonga, ero su una penisola deserta e la sera facevo pesca subacquea per procacciare la cena per me e mia moglie Paola. Due squali grigi, uno di 3 metri. Il più grande mi ha tolto la maschera con una codata, un avvertimento territoriale. A cena pane e tonno in scatola, in compagnia di due pellicani. Fabrizio, arrivano un sacco di messaggi di incontri con animali selvatici, insomma con delle bestie che di solito non siamo abituati a maneggiare. Noi quando ogni tanto vogliamo chiacchierare in maniera più approfondita di un argomento che non conosciamo, lo facciamo con qualcuno che lo sa meglio di noi. Lui lo conoscerete sicuramente, l'avrete già visto prima sulla 7 a Missione Natura, e invece adesso da poco a Life, Uomo e Natura su Rete 4. È un biologo, è un divulgatore scientifico, è Vincenzo Venuto. Pronto Vincenzo? Pronto, buonasera, ciao a tutti. Ciao, buonasera, come stai? Bene, bene, tutto bene. Cosa stai facendo? Dove sei? Dunque, in questo momento ho appena finito di lavare i piatti. Beh, alle 4:30, mangi tardi. Perché sono dovuto uscire, sono rientrato e sono ritrovato i piatti, per cui li ho lavati. Poi però in realtà sto anche preparando un nuovo viaggio che mi porterà in Slovacchia questa volta, un po' al freddo. Andrò a cercare bisonti. Fantastico. Tu, diciamo, degli animali selvatici, delle bestie, insomma, anche pericolose, ne hai incontrate parecchi, Vincenzo? Sì, Sì, qual è stato il più terrificante in assoluto, il primo che ti viene in mente? Nessuno, è sempre stata un'emozione bellissima. No, devo dire che bestie grosse ne ho trovate, ma veramente terrificante no, squali di ogni tipo, squalo tigre, coccodrilli, elefanti, leoni, qualsiasi cosa, anche avvicinati molto, però devo dire sempre in modo cosciente, mai in modo incosciente. Senti Vincenzo, io leggevo che tu hai fatto 10 anni come ricercatore e ti sei occupato della comunicazione acustica dei pappagalli, è vero? È vero. E la prima domanda è: come comunicano acusticamente i pappagalli? Questo è un discorso che adesso ci apre un capitolone e potremmo parlare 6 ore. Abbiamo 5 minuti, quindi... Allora, i pappagalli hanno una grande capacità vocale, per cui riescono a riprodurre qualsiasi suono. Per esempio, utilizzano i suoni per fare i duetti, e i duetti che sono unici per ogni coppia, per cui ogni coppia se lo mette a punto, con anche suoni che ruba in foresta, suoni che imita da qualche parte, e poi un duetto viene cantato e ballato insieme dalla coppia, e soltanto quando il duetto è perfetto allora si forma la coppia. Ma questo è uno degli esempi. Poi ma è fantastica questa storia. Sì, ci sono tantissimi tipi di richiami. E poi c'è tutta la parte invece sulla cognizione, sull'intelligenza, che era un'altra parte del mio studio, però adesso non vi voglio annoiare. Va bene, adesso poi voglio parlare di bestie selvatiche spaventose, ma non mi stai però dando corda. Tipo grizzly li hai incontrati, orsi? Sì, grizzly li ho incontrati nella Great Bear Rainforest, che si trova in Canada, al confine con l'Alaska, in un posto bellissimo della British Columbia, e noi andavamo in giro camminando per la foresta gridando "Hey bear, hey bear". Il problema lì era fargli una sorpresa, nel senso che loro dovevano sapere che noi ci muovevamo in quella foresta. E per cui gli incontri sono stati fatti non troppo da vicino, perché lì sono veramente seri e pericolosi, eravamo veramente in un posto in mezzo a nulla. Però quando fai queste cose ovviamente ci vai sempre con qualcuno che conosce il luogo, conosce gli animali. Certo, abbiamo sempre o una guida o... Sì. Lupi ne hai incontrati, Vincenzo? Dunque, lupi sì, li ho incontrati in Norvegia tanti anni fa. Il lupo italiano che gli manca, che vorrei vedere tanto da vicino, l'ho visto, naturalmente l'ho visto, quelli recuperati, salvati, rilasciati, sì, eccetera, però in natura mi manca, quello mi vorrei tanto incontrare. Il lupo italiano, che non è quello, che non è quello abruzzese? Sì, è lui, okay. Il lupo italiano, chiamiamolo così. Ok, che sta in Abruzzo, ma cioè diciamo che perché poi fa un percorso particolare, esatto, ho letto un libro bellissimo che si chiama La via del lupo, che racconta di come sia passato dagli Appennini, si è arrivato sulle Alpi alla fine, giusto? È una storia di una buona conservazione fatta in Italia, comunque sì. Vincenzo, starei un sacco di tempo, purtroppo devo dare la linea al programma dopo di Oscar Giannino. Un'ultima cosa però, dimmi rettili spaventosi che hai incontrato. Guarda, rettili spaventosi c'è tanti, un'anaconda che aveva preso un caimano e che pensavo fosse morto il caimano, invece non era morto, io ero nell'acqua insieme a loro, lì mi sono spaventato un po'. Cioè tu eri nell'acqua con l'anaconda e il caimano? Sì, è in Venezuela, è successo su YouTube, certo. Credo che ci sia qualcosa. Ma su YouTube c'è tutto, andate a vedere Vincenzo Venuto su YouTube, fa delle cose straordinarie. Vincenzo, hai la vita più invidiabile che uno di, diciamo, lì anche di là in regia, sentendo quello che dici, c'è gente che quasi piange dicendo perché non ha fatto il biologo. Ma perché non lavavi i piatti, per quello. E anche perché hai dei piatti da lavare. Magari non lavastoviglie, che ne dici Vincenzo? Erano pochi, okay. Non valeva la pena. In bocca al lupo, ricordiamo l'appuntamento, Life, Uomo e Natura su Rete 4 da quando? Cominciano queste 3 nuove puntate, la settimana è quella del 9 di dicembre, ancora devono decidere il giorno. Ok, in bocca al lupo, grazie Vincenzo, grazie, Venuto. Crepi. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Gli ultimi, ne sono arrivati un sacco di messaggi, stavo passeggiando lungo un torrente nella campagna romana sperduto, ho incontrato un cucciolo di cinghiale, ho avuto paura che ci fosse la madre, sono scappato, e poi ancora ho visto una vipera che si abbeverava, ma la mia preferita, e poi saluto, lo so Paolino che sono in ritardo, ma aspetta un secondo, dov'è? L'ho perso, eccolo qua, ho vissuto 7 mesi in Tanzania, vado verso il mio alloggio, si muove qualcosa vicino al piede, un cobra si mette nella posizione di quando esce dal cesto di quei tipi che suonano al flauto, ci guardiamo negli occhi immobili col cuore in gola, chi, tu e lui o tu e l'altro? Fino a che il cobra non si allontana. Ciao Roberto, scaricate i podcast del programma, continuate a scrivere storie, voi siete qui, @radio24.it. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini e Margherita Ina, grazie a Vincenzo Venuto che ha partecipato e ad Alessandro che ha scritto la storia. L'episodio di oggi era il suo e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Antonio, sono di Bari, la storia di domani è la mia e parla di Controradio Bari. Questa è la mia storia e io sono qui. siete qui.